America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero da New York con un reportage storico di quel che è successo in America ieri. La Corte Suprema ha confermato la proposta di riforma sanitaria del presidente Barack Obama, l'ha confermata contro ogni aspettativa. Direi che è stata una svolta fondamentale, una vittoria decisiva per l'amministrazione, per questo presidente, una vittoria con un po' di amaro in bocca, perché poco dopo il congresso repubblicano ha censurato il segretario alla giustizia Eric Holder per oltraggio nei confronti del congresso. Direi che fra queste due cose non c'è confronto. La seconda è stata una scelta prettamente politica, non credo che cambierà di molto gli equilibri dell'amministrazione. La prima, invece, la sentenza della Corte Suprema ha davvero fatto storia. Principles of stare decisis look at a number of factors, settled expectations, one of them as you mentioned. John Roberts, il Chief Justice, un repubblicano doc, a sorpresa si è schierato con la maggioranza. Nessuno se lo sarebbe aspettato, tantomeno i repubblicani, che sono rimasti frastornati davanti alla notizia. Roberts ha detto e ha scritto nell'opinione: il governo federale non ha il potere di imporre una transazione commerciale e quindi di imporre l'acquisto di una polizza assicurativa, ma ha invece il potere di imporre una tassa a coloro che non hanno un'assicurazione sanitaria. L'individual mandate, che è l'aspetto centrale della riforma di Obama, è l'aspetto centrale in discussione in corte, è quindi costituzionale, dice Roberts, perché può essere ragionevolmente letto come una tassa. Ecco, se fosse stata una penalità, se fosse stato un obbligo commerciale all'acquisto, allora forse c'erano dubbi sulla costituzionalità. Ma siccome il Congresso ha il diritto di tassare i cittadini e siccome in fondo qui si tratta di una tassa, ecco che a sorpresa, ripeto, la costituzionalità è stata provata. It should be pretty clear by now that I didn't do this because it was good politics. I did it because I believed it was good for the country. I did it because I believed it was good for the American people. But today, I'm as confident as ever that when we look back, we'll be better off because we had the courage to pass this law and keep moving forward. Barack Obama, raggiante, vittorioso, è apparso alla East Room della Casa Bianca con una dichiarazione liberatoria, perché è chiaro che questa sua proposta di riforma sanitaria non è amata, non era amata e non è amata da una gran parte dell'opinione pubblica americana. Eppure con questa sentenza della Corte Suprema il presidente si è rimesso in gioco. Le sue sono state delle scelte ideali, non delle scelte politiche. Per questo ha detto: credo sia chiaro ormai che non ho voluto questa riforma per ragioni politiche, ma perché ritenevo che fosse un bene per il paese e per gli americani. Oggi sono sempre più convinto che in futuro, quando guarderemo a questo momento, staremo tutti meglio perché abbiamo avuto il coraggio di approvare questa legge e di andare avanti. E dunque, cosa significa questo? Che per Obama la strada a questo punto è liscia, tranquilla, libera, priva di ostacoli? Beh, direi di no, perché i repubblicani capitalizzeranno su questa sentenza dicendo che da una parte toccherà adesso all'elettorato cacciare Obama dalla Casa Bianca, insediare Mitt Romney e far sì che la proposta di legge che dovrebbe entrare in vigore nel 2014 sia abrogata dalla nuova amministrazione. Un secondo fronte di attacco riguarda proprio la definizione di tasse. Le tasse sono odiate dagli americani e su questo non c'è dubbio che Romney cercherà di attaccare. What the court did not do on its last day in session, I will do on my first day if elected president of the United States. And that is, I will act to repeal Obamacare. E difatti Romney dice: la Corte Suprema ha stabilito che la riforma sanitaria non viola la Costituzione, ma non ha detto che è una buona riforma. Questa era una cattiva riforma ieri, resta una cattiva riforma oggi. Se sarò eletto, anzi quando sarò eletto, il primo giorno del mio mandato abrogherò l'Obamacare. Passing the Affordable Care Act was the greatest single step in generations toward ensuring access to affordable quality healthcare for every person in America. Harry Reid, presidente del Senato, democratico, dice che questa sentenza conferma la validità di una proposta di legge rivoluzionaria dovuta agli americani da decenni. The President of the United States himself promised that this bill was not a tax. Well, the Supreme Court has spoken. This law is a tax. Mitch McConnell, senatore del Kentucky, capo della minoranza, il presidente ha ripetuto che questa legge non prevedeva un aumento delle tasse. Ebbene, questa legge è una tassa. The president's health care law is hurting our economy. And I think today's ruling underscores the urgency of repealing this harmful law in its entirety. John Boehner, presidente della Camera, la riforma di Obama sta già azzoppando l'economia. Se andremo avanti di questo passo, dovremo chiudere le saracinesche. Ho voluto proporvi molte reazioni per darvi un'idea di quanto la giornata sia stata davvero dominata da questo evento, da questa sentenza storica. Ci sono tre aspetti, appunto, storici, secondo me, nella giornata di ieri. Il primo, e devo dire quello che mi colpisce di più in quest'epoca di grande polarizzazione della politica, è che un giudice di ortodossia repubblicana abbia votato a favore di un presidente democratico. Si è trattato di un'affermazione dell'assoluta autonomia della Corte Suprema americana dalla politica, proprio come volevano i padri fondatori. Non si vuole, attenzione, convalidare la saggezza della legge, come ha scritto John Roberts, il Chief Justice di cui vi parlavo prima. Piuttosto c'è, e qui cito di nuovo Roberts, una certa reticenza a invalidare gli atti dei leader eletti dalla nazione. Non è nostro dovere proteggere la popolazione dalle conseguenze delle loro scelte politiche. La Corte Suprema dunque si tiene fuori dalla politica, una lezione che ci dà la misura della forza della democrazia americana contro modelli assolutisti, ora Pechino, ora Mosca, che rivendicano un primato dal punto di vista dell'efficienza e della gestione dello Stato. Beh, il secondo aspetto storico ve l'ho detto, l'America resta agganciata ai paesi industrializzati. Il terzo, hanno fallito Lyndon Johnson, Jimmy Carter, Bill Clinton, ciascuno voleva la sua riforma sanitaria, non ce l'hanno fatta, Barack Obama ha vinto, ha avuto successo, ci è riuscito. E ci è riuscito prendendo un rischio contro l'opinione pubblica, contro molti dei suoi stessi compagni di partito. Sapeva che forse avrebbe perso la maggioranza in congresso, ma è andato avanti, ha difeso la sua posizione fino in fondo. E questa vittoria di ieri contro ogni previsione, beh, direi che gli restituisce la credibilità politica e soprattutto una grandezza di leadership che sembrava evaporare. Si tratta di capire ora se Obama riuscirà a tradurre questa vittoria chiave per la storia della sua amministrazione in una vittoria utile per la conferma alla Casa Bianca 2012. L'opinione pubblica è contraria a questa riforma. Obama avrebbe forse potuto liberarsi di un peso se fosse stata abrogata. Qualcuno dice che Roberts abbia addirittura emesso la sentenza per creare problemi a Obama a novembre. Beh, in situazioni di questo genere può valere tutto, naturalmente, ma io preferisco credere che ieri in America ha vinto la democrazia. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, questa polemica sul sistema sanitario americano ha coinvolto l'America sotto ogni punto di vista. Pensate, Tom Morello, un musicista, attivista politico, era rimasto talmente colpito dal documentario di Michael Moore, Sicko, che diceva quanto l'America era indietro senza riforma sanitaria, si è ispirato e ha scritto una canzone che vi propongo. Alone with you. Sick of the fear and sick of the cold. Sick as it's worse for the weak and the old. With two broken legs I'm climbing this hill. Sick of dissent, who gets what in my will? I, unforgivable but true. I, I'm alone without you. Sick as I'm stuck on the side of town, it's sick as I'm pulling but still sinking down, it's sick as I can't turn this whole thing around, it's sick as I'm too weak to hunt somebody down, sick as this hammer and litany of sins is banging and burning, I can't stand the dim, sick as the darkness keeps seeping on in,